Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quando compriamo un cellulare da 100 euro ci troviamo allegato un libretto delle istruzioni che solitamente pesa almeno il doppio. Quando invece compriamo una casa firmiamo di solito una clausola in cui ci impegniamo a tenercela così com'è. Non sappiamo quasi sempre nemmeno dove passano i tubi, dove passano i cavi, che cosa c'è dentro alle pareti, altro che libretto di istruzioni. Perché? La risposta più semplice, probabilmente anche più onesta, è che si è sempre fatto così. E probabilmente questo è uno dei motivi di fondo per cui la certificazione degli edifici, energetica, ambientale, eccetera, non sfonda, non fa presa. Però, insomma, sono stati fatti anche tanti errori, è stata gestita male questa vicenda. Allora, in due puntate vogliamo parlare di certificazione degli edifici con Norbert Lanchner, che attualmente è presidente della Fondazione Climabita, che è un sistema anche questo di certificatore, ma è stato il fondatore di Casa Clima. Primo caso, e direi attualmente ancora l'unico di sistema virtuoso che a livello territoriale è riuscito a chiudere il circuito tra il mondo dell'edilizia, il mondo dei consumatori che vogliono case certificate Casa Clima, il mondo dei produttori di componenti edili e così via. Insomma, è nato quel sistema di cui tanto si parla. Buonasera Norbert Lanchner. Buonasera. Vorrei che tu partissi proprio dalla storia. Tu eri dirigente dell'ufficio Aria Rumori della provincia di Bolzano. È giusto Maurizio, ero da tanti anni dirigente e mi occupavo dell'inquinamento dell'aria e vedevo una situazione paradossa, cioè che andiamo a monitorare la qualità dell'aria, andiamo a pubblicare i dati che ci dicono che dobbiamo migliorare questa qualità dell'aria e dall'altra parte sappiamo anche le grandi fonti che sono ovviamente la mobilità ma anche l'edilizia, queste migliaia e migliaia di camini che scaricano gli inquinanti in atmosfera. Abbiamo in Italia, parlo degli anni 90, fine anni 90, due importanti leggi che tutelano una certa qualità energetica delle costruzioni, però sono sempre rimaste sulla carta. In realtà nei cantieri queste conoscenze, questi sviluppi non sono entrate, per cui abbiamo detto che dobbiamo cambiare l'approccio, dobbiamo cercare di ribaltare il sistema, le norme non sono sufficienti e neanche gli incentivi. Insomma, prescrivere di per sé, dire è obbligatorio da domani fare così, anche quando diventa una legge, non necessariamente sortisce gli effetti sperati. No, e quindi serve qualcos'altro. Infatti abbiamo visto che la figura più debole è proprio il committente, l'utente finale. Abbiamo detto dobbiamo cambiare il sistema e ridare il quaderno in mano a chi paga, chi vive questi ambienti. Per cui abbiamo detto quello che manca assolutamente è la trasparenza, cioè è un linguaggio che per l'utente finale è comprensibile, non puoi parlare di trasmittanze, di valori lambda, di bilanci energetici e di kilowattore. Questo è puro cinese per il 99% dei cittadini, per cui certo. Abbiamo detto dobbiamo tradurre questa materia molto complessa in un messaggio semplice, per cui abbiamo creato queste classi di efficienza energetica che a suo tempo non esistevano in Italia, la classe A, la classe B, fino alla classe F. Vi siete ispirati in realtà, credo, alle etichette degli elettrodomestici. Abbiamo imparato dal successo di questi elettrodomestici che avevano la targhetta, perché sono state vendute le migliori classi di efficienza energetica, perché il cittadino non è stupido, sa, quando ha una classe A paga di meno di corrente elettrica. Certo, per cui abbiamo costruito un nuovo certificato che non parlava questo linguaggio altamente tecnico, ma aveva queste classi, la classe A, perché tutti in Italia vogliono giocare in Serie A, e era in colore verde, come il semaforo, col verde puoi andare, il rosso era la classe F e vuol dire che hai un problema. In più abbiamo detto che anche questo non è ancora sufficiente perché è un pezzo di carta, però ho detto un documento finisce in un cassetto e poi sparisce definitivamente. Abbiamo detto uno deve essere fiero del suo investimento, ciò che sta vivendo, per cui abbiamo creato la targhetta Casa Clima che era diciamo unico a livello mondiale addirittura, forse l'unica volta che la Germania ha copiato qualcosa anche dall'Italia, perché 3 anni dopo anche la Germania, anche Berlino ha un tradotto. Io credo che qui ci stiamo veramente avvicinando al punto cruciale, di cui però riusciremo, temo, a parlare Norbert lunedì, perché il nostro tempo per oggi è finito. Ci sentiamo lunedì. Grazie Maurizio. A voi tutti, buon fine settimana.